peggio di uno stolto. Gli uomini non sono tutti uguali. Anche la parola di Dio riconosce la diversità delle persone, con la differenza che essa non li cataloga secondo la nazione di provenienza americani, inglesi, italiani, russi, ma soprattutto li considera dal punto di vista spirituale. Ecco che, nel libro dei Proverbi, leggiamo la classificazione, da parte di Dio, circa l'essere umano. Essa riguarda aspetti positivi e negativi. Al negativo, l'uomo stolto, l'uomo beffardo, l'uomo perverso, l'uomo iniquo, l'uomo da nulla, l'uomo malizioso, l'uomo collerico, l'uomo violento, l'uomo privo di senno, l'uomo invidioso, l'uomo pigro, 17-18, 38-22. Al positivo, l'uomo integro, l'uomo integro, l'uomo buono, l'uomo accorto, l'uomo da bene, l'uomo generoso, l'uomo retto. Non sono certamente io neppure tu, ma lui gli altri. Però, secondo ciò che ci insegna l'esperienza, è colui che tiene un certo comportamento. Non occorre molto per capire chi è permaloso o avaro. Il suo comportamento lo rivela. Secondo il vocabolario, lo stolto è colui che ha poco senno. La definizione è un po' avara. Inoltre, col passare del tempo, le parole cambiano significato. Per questa ragione, è più che mai necessario leggere nella parola di Dio, che rimane immutabile nel tempo, quali siano le caratteristiche dello stolto. Eccone alcune. 1. Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'ha che Dio. Salmo 14, 1:53. 1. Lo stolto è innanzi tutto colui che nega l'esistenza di Dio. Se stolto è colui che pensa ed agisce con scarsa intelligenza, si comprende perché colui che neghi l'esistenza di Dio sia stolto. Affermare che il creato non abbia un creatore è proprio da stolti. Se ogni cosa che è stata creata ha un creatore, non è possibile che un universo venga dal nulla. Un giardino ordinato deve avere un giardiniere. 2. Ergiti, o Dio, difendi la tua causa. Ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Salmo 74, 22. Non avendo fede, lo stolto offende Dio ogni giorno. Lo offende non solo con la bestemmia, ma anche facendo ciò che è male, quando maledice e maltratta la creatura che è fatta all'immagine di Dio. Non si offende un pittore solo parlando male di lui, ma anche nel deturpare la tela da lui fatta. 3. Un figlio saggio rallegra suo padre, ma un figlio stolto è un dolore per sua madre. Proverbi 10, 1, 1520, 1725, 1913. Disprezzare significa reputare senza alcun valore una persona. Uno stolto non ascolta i genitori, verso i quali è debitore della vita. Un genitore, per quanto imperfetto sia, per quanti errori abbia commesso, è sempre degno di essere rispettato. Inoltre, ha pur sempre qualcosa da insegnare. E, nato prima del proprio figlio, l'esperienza accumulata negli anni l'autorizza al suo ruolo di istruire. 4. Chi dissimula l'odio ha labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è uno stolto. Proverbi 10:18. Calunniare significa gettare del fango morale su di una persona. Lo stolto, anziché proteggere la reputazione del prossimo, sparge la calunnia ovunque. Il verbo spargere rende l'idea di chi getta qualcosa a casaccio, come lo stolto che parla senza considerare come parla e con chi parla. 5. Le labbra dello stolto causano liti, e la sua bocca attira percosse. Proverbi 18, 6. Con il suo comportamento, lo stolto genera liti e attira gli scaffi. Egli non pensa a ciò che dice e fa. Pensa solo a ciò che deve dire. Egli non pensa che chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Proverbi 17.9. Ma il suo intento è di mettersi in mostra, costi quel che costi. 6. Se un saggio viene a contesa con uno stolto, quello va in collera o raid e non c'è ed è intendersi. Proverbi 29, 9, 7, 6. Lo stolto prende alla leggera le discussioni serie. Egli non sa distinguere tra ciò che è buffo da ciò che deve essere tenuto in considerazione. Lo stolto non comprende quando offende, quando parla di ciò che non deve parlare, per cui non è possibile intavolare una discussione seria. 7. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Ecclesiaste 4:5. Colui che non ha voglia di lavorare è uno stolto. È vero che la maggioranza delle persone va al lavoro, ma una cosa è lavorare per forza, un'altra è lavorare con l'intenzione di far niente. Si nota? Chi desidera lavorare quando uno agisce di sua spontanea volontà, quando si offre spontaneamente? 8. Lo stolto e l'ignorante periscono tutti e lasciano ad altri le loro ricchezze. Salmo 49:10. Lo stolto non è prudente e non provvede per il futuro. Egli pensa solo a se stesso, accumula beni. Tanto per accumularli, non ha la visione di aiutare il prossimo, non provvedere per tempo che i suoi beni possano in futuro essere amministrati rettamente. 9. Nella bocca dello stolto germoglia la superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro custodia. Proverbi 14:3. Lo stolto parla con arroganza. Ha sempre qualcosa da dire, ma non ha da dire nulla. Parla come se fosse la verità incarnata. Ritiene gli altri inferiori. Lui sa, gli altri devono imparare. 10. Vattene lontano dallo stolto. Sulle sue labbra certo non hai trovato scienza. Proverbi 14:7. Lo stolto è ignorante e crede di sapere. Parla e giudica, anche quando non conosce gli argomenti. Egli non si preoccupa di informarsi, perché è gonfio della sua presunzione. Lo stolto è uno che ha tanto da dire ma non dice niente. 11. Il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Proverbi 14:16. Lo stolto è sfrontato, non evita il male. Si sa che ciò che si semina si raccoglie, perciò una persona accorta evita il male, anche se sarebbe tentato di compierlo, ma lo stolto tira diritto senza preoccuparsi di ciò che potrebbe succedere. 12. Un rimprovero fa più impressione all'uomo intelligente che 100 percosse allo stolto. Proverbi 17:10-27:22. Lo stolto è uno che non riceve correzioni e tanto sicuro del suo modo di comportarsi che non ascolta opinioni, rimproveri, riprensioni. Lo stolto sfida il pericolo, non si cura degli avvertimenti. Per lui vi è una sola regola, fare ciò che gli piace. 13. La saggezza sta davanti a chi ha intelligenza, ma gli occhi dello stolto vagano agli estremi confini della terra. Proverbi 17:24. A Porto Rico ci è un osservatorio gigante che esplora l'universo in cerca di una vita intelligente. Eppure, l'uomo trascura il messaggio eterno che è pervenuto dall'aldilà mediante Gesù Cristo. Così, lo stolto cerca la sapienza dove non c'è. Non ascolta Dio che parla tramite il creato e la sua parola. Non ascolta le persone che gli sono vicine, coloro che lo amano, ma piuttosto si rivolge agli sconosciuti e concetti filosofici, astratti e dannosi. 14. Lo stolto prende piacere non nella prudenza, ma soltanto nel manifestare ciò che ha nel cuore. Proverbi 18:2. Lo stolto è se stesso. Egli non pensa di essere corrotto e malvagio per natura, perciò ritiene giusto fare sempre ciò che le sue inclinazioni gli dettano. Egli non valuta che le sue inclinazioni debbano essere vagliate alla luce della parola di Dio. 15. In casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio, ma l'uomo stolto dà fondo a tutto. Proverbi 20:21. Lo stolto non risparmia. Compra, spende, spande a più non posso. Per lui il piacere e la soddisfazione del momento è più importante di una spesa intelligente, sobria. 16. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Proverbi 28:26. Lo stolto crede che ciò che sente o pensa sia sempre giusto. Confida in sé, anziché in Dio. Lo stolto fa affidamento ai suoi sentimenti, è sicuro di se stesso, non ha dubbi. 17. Il saggio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto l'ha alla sua sinistra. Ecclesiaste 10, 2. Lo stolto segue la massa, la maggioranza. Egli non ha il coraggio delle sue affermazioni. Preferisce la concordia alla verità. Il saggio se ne sa distaccare, perché tiene alla verità più che all'opinione della massa. 18. Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Genesi 4:22. E, stolto tanto chi non crede in Dio, quanto chi non conosce Dio. Conoscere Dio presuppone una ricerca, un impegno serio e duraturo. Lo stolto, essendo pigro in ogni cosa, preferisce rimanere così. Com'è. 19. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Matteo 7:26. E, stolto chi si limita ad ascoltare le parole di Cristo. Ascoltare è piacevole, e a volte gratifica, ma mettere in pratica è molto più impegnativo. Lo stolto è uno che ascolta e proferisce le parole di Cristo, ma la sua vita non ne è condizionata. 20. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato, di chi sarà? Luca 12:20. E, stolto colui che pensa solo alle ricchezze terrene. E, colui che disprezza ciò che non vede, ciò che non gli procura un immediato piacere o soddisfazione. Le cose di Dio, eterne e immutabili, sono ai suoi occhi tutte vanità, mentre le vere vanità sono le cose terrene. 21. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Proverbi 26:4-5. Alla fine, con uno stolto, non si sa come comportarsi. Qualsiasi cosa tu dica, egli ha sempre da dire e ridire. Egli ride di ciò che non si dovrebbe ridere e prende sul serio ciò che non vale la pena. La lezione da imparare. Secondo la scrittura, è veramente grave essere stolti. Anzi, è una disgrazia, ma l'insegnamento che Dio ci vuol dare non si limita ad evidenziare quale sia il comportamento di un uomo stolto. L'Eterno Dio prende l'esempio dello stolto per insegnarci qualcosa di molto più profondo, a non cadere in peccati più gravi. Vi sono due atteggiamenti peggiori del comportamento dello stolto. Noi possiamo subito pensare a peccati gravi come l'omicidio o ripugnanti come lo stupro, ma, come spesso accade, i peccati che ripugnano a Dio non sono ripugnanti altrettanto per noi, così come quelli che colpiscono maggiormente il nostro occhio sembrano quasi meno appariscenti agli occhi del nostro Creatore. Considerare quindi seriamente questi due avvertimenti significa incamminarsi per il sentiero che conduce ad una vita abbondante. Leggiamo in Proverbi 29:20. A. Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C. È più da sperare da uno stolto che da lui. La vita è veramente strana. Appena un bambino nasce aspettiamo che impari a parlare. Siamo ansiosi di udire le prime timide paroline, mamma e papà. In seguito, si va a scuola per imparare a parlare bene. Ma una volta imparato a parlare, dobbiamo imparare a tacere. Questo perché con la nostra bocca possiamo fare tanto bene come tanto male. Con la lingua possiamo rovinare per sempre una persona, come altresì possiamo fargli del bene per l'eternità. Del questo la scrittura fa molti riferimenti al parlare. I cristiani non devono dire parole sconvenienti, sono tenuti a pronunciare parole di incoraggiamento, devono parlarsi con grazia, nell'intenzione di edificarsi reciprocamente. Alla donna è richiesto di non chiacchierare nelle riunioni e di guadagnare il marito non credente senza alcuna parola, ma mediante la condotta. Questo non deve certamente portare la donna a rimanere sempre muta, ma ad avere quel giusto atteggiamento mirabilmente descritto da Paul Tournier nel suo libro Comprendersi meglio fra coniugi. Una moglie a cui tutto appare semplice, che parla con sicurezza di ogni argomento e di come bisogna fare e non fare, dà a suo marito l'impressione di essere da lei considerato un incapace, e questo nessun marito lo sopporta. Colui che parla precipitosamente, in altre parole senza riflettere, è meno affidabile di uno stolto. Si sbaglia a parlare quando si è prudenti. Immaginiamoci quando si parla in fretta. Secondo Proverbi 17:28 è meglio tacere che parlare senza pensare. Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Uno stolto che tace è, dunque, meglio di chi non tenga a freno la propria bocca. Proprio per questo, Giacomo, nella sua lettera, rende evidente che chi non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto. È evidente che la perfezione è solo in Dio, ma Giacomo sta affermando che più uno riesce a controllare la lingua, più tende alla perfezione, al controllo quindi di tutto il suo essere, alla completezza. Se sei incontinente nel mangiare, nel bere, nel sesso, nel riposo, nell'ira, è molto probabile che tu sia anche incapace di controllare la lingua. Spesso siamo ambiziosi di saper parlare bene, di essere dei bravi oratori, dei bravi coniugi, dei credenti zelanti, e poi falliamo il vero obiettivo, avere l'ambizione di controllare la lingua. Giacomo è molto preciso a riguardo. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio il Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Giacomo 1:26-27. La parola religioso usata qui da Giacomo è in senso positivo: colui che è legato con un patto a Dio. Così, colui che non riesce a controllare la lingua è un credente che inganna se stesso. Ha una fede vana. Ha fallito in tutto. Questo spiega anche perché molti abbandonino la fede che professano. Beati, quindi, coloro i quali sono in grado di controllare l'organo più difficile e più importante del corpo. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Salmo 1:3. Imparerà molte cose nuove. Sì, perché sono molto più le cose che dobbiamo imparare di quelle che già conosciamo. Leggiamo in Proverbi 26:12b. Hai mai visto un uomo che si crede saggio? Sì, è più da imparare da uno stolto che da lui. La vita è veramente strana. Si nasce ignoranti e si vive per imparare e crescere nella conoscenza. Poi, quando ormai si ha una certa istruzione, si è raggiunta una certa sicurezza, Dio ti ordina di non confidare in quello che hai imparato e non appoggiarti sulla tua esperienza. Perché? Perché se lo stolto non fa nulla di buono e non ha nulla di buono da dire, colui che pensa ad essere saggio è peggio di uno stolto. Chi pensa ad essere saggio non è colui che crede di sapere tutto, ma chi crede di essere autosufficiente. E, stolto, colui che pensa sempre di sapere cosa sia meglio per lui, colui che crede di sapere meglio di Dio come amministrare la propria vita. Non comportarsi peggio di uno stolto non significa certo dover ritenere se stessi degli ignoranti o degli analfabeti. Tutti i grandi uomini di Dio, compreso Paolo e gli altri apostoli, erano coscienti dei loro doni. Lo stolto è colui che confida nel suo proprio discernimento, contravvenendo alla parola di Dio che dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento, Proverbi 3:5. E, peggio di uno stolto, chi non accetta la morale di Dio. Chi crede, ad esempio, che i rapporti prematrimoniali, così come rubare, mentire, trasgredire o disobbedire, siano le strade più brevi per ottenere la felicità. Il cristiano deve usare il proprio discernimento, ma non fare di questo il metro infallibile della sua vita. Dobbiamo lasciare a Gesù Cristo il diritto di intromettersi nel programma della nostra vita. Anche la parola nostra è impropria. Pensare d'avere diritto di possesso sulla propria esistenza fa di noi dei ladri, giacché questa è stata acquistata a caro prezzo da chi poi ce ne ha fatto un dono. Disse qualcuno, dobbiamo imparare a compiere la volontà di Dio e a diffidare della nostra intelligenza. Spesso si arriva a questo stadio dopo un lungo cammino, cosparso di fallimenti. È evidente che prima si arrivi a diffidare della propria intelligenza, prima si realizzerà una vita cristiana sottomessa allo Spirito Santo. Di conseguenza e soprattutto, non si arriverà ad essere peggio di uno stolto. Peggio di uno stolto è dunque colui che non controlla il suo parlare. Chi si crede saggio? Si crede saggio colui che pensa di non aver bisogno di Dio e del prossimo. Si crede saggio colui che non legge la parola di Dio perché ritiene sufficiente la sua intelligenza. Si crede saggio colui che non vive con gli altri perché crede di non averne bisogno. Lo stolto è colui che è arrivato. Disse Robert Neville, vivere con un santo è molto più estenuante che esserlo. Abbiamo bisogno di prendere tempo. È indispensabile scendere per qualche momento da quella giostra frenetica che è la vita di tutti i giorni. Questa folle corsa quotidiana che si trasforma purtroppo e probabilmente senza che ce ne rendiamo conto, tanto nella nostra trappola quanto in una scappatoia. Dobbiamo trovare il coraggio di stare con noi stessi, di capirci, di riflettere per capire chi siamo in realtà, al di là dell'immagine fittizia che spesso ci siamo creati, tanto di noi quanto del mondo a noi circostante. Abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare la voce di Dio, omettendo questo che è tra l'altro un preciso e costante ordine di Dio, diventiamo peggio di uno stolto. E, triste, devo ammetterlo, sono talmente incapace di esprimere certi sentimenti verso Dio che ho bisogno di copiarli dai sentimenti umani, dato che uno dei sentimenti più forti è l'amore provato da un uomo verso l'amata, prendo in prestito alcune parole di una canzone dal titolo La voce del silenzio. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. E ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Ho capito delle cose che credevo morte ormai. Ci sono cose nel silenzio che non mi aspettavo mai. Corre una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il vuoto delle cose che hai perduto dentro di te. Ora sento amore, ti sento nel mio cuore. Nella mia solitudine e disperazione cercavo Dio. Nel mio silenzio la sua voce mi parlava. Ho capito cose che credevo morte ormai. Trovato Gesù Cristo mi sono reso conto che ciò che cercavo era Lui. Egli ha preso il posto che non perderà mai. Sì, ora Gesù Cristo ha occupato il posto che gli spettava dall'eternità. Egli è il mio Salvatore e Signore. Ed ora lo scopo della mia vita è quello di lasciarlo padrone assoluto d'ogni cosa, di offrire per amor suo una spalla a chi soffre, d'essere pane per l'affamato, ma soprattutto di essere simile al mio Maestro, il quale disse: «Il Signore, l'Eterno, mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli mi risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come fanno i discepoli». Isaia 54. E questo non solo per non diventare uno stolto, ma per evitare di essere anche peggio di uno stolto. 199. Ellero.